Zolt. Fulminati in azienda. Cari colleghi, anzi, carissimi amici. E che è successo? Ti sei impazzito? No, vi ho riunito qui tutti perché vedo finalmente uno spiraglio nelle tenebre, una luce in fondo al tunnel. Oh, che magnifica metafora. Lo spiraglio è che per la prima volta dopo due lunghissimi anni, questo trimestre abbiamo chiuso in utile. Un lieve, lievissimo utile. Una notizia bellissima, no? Sapete bellissima. Cosa vuol dire, vero? Che forse comincia finalmente la ripresina, si esce dal tunnel. Facciamo un applauso. Ma facciamo subito applauso. Un comunicato stampa, organizziamo una festa. Però posso dire, non esageriamo con le feste, che ogni volta carsi il capo ti arriva una legnata dietro, però. Infatti, direi, anzi, tocchiamoci un po', tocchiamo ferro, fate gli scongiuri. Anzi, facciamo finta di niente, che è meglio. Hai ragione. Meglio la prudenza, un po' di understatement. Io proporrei proprio un rito propiziatorio. Uniamo tutte le mani, su. E tutti insieme. One, two, three, la sfiga via di qui. Oh, pronti? One, two, three, la sfiga via di qui. Allora hai deciso. La sfiga. Facciamo finta di niente. Okay. Però vi volevo anche dire, qualche iniziativa per respirare un po', così per motivarsi, potremmo farla, qualche spesuccia qui e là, dai, attendo proposte. Allora, avete pensato come gestire questa ripresina? Beh, sì, posso. Ho pensato una festa di primavera per tutti i dipendenti. Cospargiamo i petali colorati tutti i corridoi degli uffici e offriamo ostriche del Baltico, champagne francese e caviale russo. Brava Marta. Io farei anche, ne dite di un mega concerto nella sala mensa e alla fine fuochi d'artificio fucsia e d'oro, naturalmente su sfondo prugna. Bravissima. Propositiva. Scusate, ci sarebbe anche da rinnovare tutto il parco PC, introdurre finalmente una nuova piattaforma per la formazione on distance, distanza. Ma sì, ma perché no? Mi pare il momento giusto. Dai, basta con quei cassettoni che sembrano lavatrici. È giusto. Schedula? No, pensavo che sarebbe il momento giusto di introdurre un sistema incentivante e finalmente dare il via al kick-off delle varie divisioni vendita. Sono 2 anni che vogliono fare la convention. E allora facciamo la convention con i venditori. Perché è giusto. Che anche i venditori vedano la luce in fondo al tunnel. Mi chiedeva lo squalo, capo area del centro sud, se poteva portare i ragazzi così a Cuba, no? Facciamogli portare i ragazzi a Cuba, capo. L'ultima cosa, pensavo in un attimo di generosità di dare a Pacco il contratto fisso, come segnale. Centri, calmi. Ma però, no, ma che c'entra? Lo assumiamo, ma poi lo licenziamo subito, è solo un segnale, no? Ai, sto malissimo. Cosa c'è? C'ho l'ernia iatale da ostrica del Baltico. Dai, centri sempre a lamentarti. Dai, dammi piuttosto il bollettino di guerra. Il bollettino. Allora, il 72% degli impiegati è a casa per un'intossicazione alimentare da ostrica avariata. 10 denunzie per disturbo da quiete pubblica per l'acuto del tenore durante il concerto. Se crepata una trave, dovremmo fare il genio civile. Basta. Questa festa di primavera è una tragedia. Dai, comunque, tiriamoci su, che la ripresina è iniziata. Mo te voglio vedere come te tiri su con questo, Cos'è questo foglio? Fammi vedere, allungami il foglio. Sono i conti delle iniziative che abbiamo messo su in questi giorni di ripresina. Meno 700. Ma siamo impazziti! Ma ci siamo già bruciati tutto l'utile. Esatto, le proiezioni per il prossimo trimestre stanno di dietro, se guardi. NCS, non ci siamo. Annullare tutte le iniziative. Parola d'ordine, austerity. Sembrava una luce in fondo al tunnel e invece era un treno. Zot è scritto e interpretato da Andrea Beretta, Nicola Giunta, Andrea Notarnicola e Patrizia Sorrenti, con la partecipazione di Chiara Romersa, Emanuele Margiotta e Pina Luciani. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3Z 2O 1T.